e mi sto facendo cosa? Facendo la roba, la fare, eccetera. Già sono qui, Antonio è sempre qui. E Antonio, oggi eravamo là dalla pediatra a portare a Marco a controllare per la clinica, per tutto, se ne stanno andando bene. Io tutta la vita che ho fatto stare anch'io. Ah, l'avete portato a fare un controllo? Gappa. E se non andava tu? Vabbè. Controllo generale. Ogni tanto ci vuole tanto. Gappa, ci vuole sì. Adesso domani devo andare dal dentista. Forse devono mettere l'apparecchio. Ah? Cosa c'hai acceso già? Dio? Si sente qualche cosa? Va, una ventola. Sarà nel sacco. Cos'era? Ora la stacco. Non è fastidiosa, no? No. È una ventola, sì, una ventola. Per muovere una ventola, ma se è necessaria non so da fare. È necessario, diciamo che così l'ho messa là per vedere se andava. E già vabbè. Ma cosa l'hai messa per chi? E io. E quando si usa bisogna farla entrare in funzione quello. Normale. Ma li devo fare un interruttore, l'ho messa posticciamente adesso. Gappa, è tutto un interruttorino. L'ho messa così per provare, ma già va bene, non è virus. L'ho comprata, costa una gazzata, 7 euro, un negozio di computer l'ho comprato. Gappa, quella lì. Un numero lì ma ci vuole, soprattutto quando quando devi usarlo, perché si calda malato l'estate soprattutto, e bisogna farlo raffreddare. Scalda, io non so che scalda, anche l'inverno scalda se lasci morto, non è che sono d'estate. Ma io l'ho messo, non l'ho attaccato, no? Te l'ho appoggiato e basta. Come abbiamo fatto noi? Io lo appoggio perché il sistema già ci starebbe. Delle vecchie autofilettanti che incastrano tra una lettera e l'altra, ma vogliono un bel grosso. Il carnago lo appoggi così e raffredda. L'importante è che raffreddi. Infatti. Ma voi cosa avete fatto? Interruttore esterno? L'interruttore è già attacca. Ma dove l'avete messo? Attaccato all'apparecchio oppure sul filo? Filo lo metti, cosa? Sì, come voglio fare io. Tipo che si trova giù. Chi non andava in Roma a te? Chi andava, ma è un po' buzzerra, no, sto scherzando. No, questo l'ho messo diretto. L'ho messo diretto per vedere se andava e basta. Tutto lì, e voglio vedere se rende. Se rende, faccio un lavoro più serio. Senza sarebbe prendere un interruttore. Aprire dove ci sono i disegni, dove si mettono i tasti. Tu lì quel disegno lì, ci metti il tasto vero uguale. E se lo faccio entrare. I fili interni, che non si vede nulla, la cosa attaccata. Quando la devi attaccare, attacchi dall'interruttore davanti. Gappa. Ma alla fine vuole buona. Cioè, deve raffreddare, perché sempre così, ma tutto quando sta un bel po' modulando scalda maledettamente. Sì, io ce l'ho di computer, ma non è che ho messo quella, no? L'ho comprato stamattina. Già lo so, già. Ho messo il computer direttamente, tanto più massiccia. Ma voi sei andenti, te? È sotto il polo, ma sotto il polo questo cavolo di vento, a vedere come va, si arrende. È un pochino che sta scalando, ma non assai, ma non assai. Se non raffreddasi, raffreddasi. Che volta lo deve raffreddare? No, ma adesso è freddo, è appena incominciato. Non penso che sia da poco fa. Siete, se siete, sto chiamando da poco fa, perché il bambino dovrebbe essere di conoscenza, sicuramente deve fare qualche cosa. Oh, e di che adesso? Ero una cosa lavatrice. Sono a casa, sono passato, ma non ti ho visto, che fine avevi fatto? Il bagno lì. No, sicuramente sono fa. Ma che ora sei passato? Sono andato a Lina per fare degli esami. E poi sono passato da voi. E c'era Pierpaolo col Torino, mi sono avvicinato a moto e ho detto scusi, me la carica per cortesia una bombola. Se dove la vuole dietro, sì, ma di quelle da campeggio. No, io stavo sicuramente sono andato a fare qualche consegna, non me lo ricordo bene cosa stavo facendo. Perché non esci con Pierpaolo? No, se lì cosa è come lui. Infatti stavo parlando con Tonino. Chiappa, ecco, c'è Tonino. Meccanico. Infatti ero. No, sono andato a vedere una cucina di ghisa che me l'ha fatta vedere per piazzarla, ma io ho detto guarda non si preoccupi, gliela monto io. Da voi la dipende chi per l'autenico, che ma vaffanculo. Ti ha fatto andare a te da voi che lascia per l'autenico. Vedi, ti chiedere mandavano i ghisa che d'altro. Ah, non mi interessa. Vabbè, tu, vabbè signore, io non torno più, se fosse a Rangeli. Sì, la mi torno, non è che non torno più, no? Già ci torna Antonio. Fino a voi. A mani forte già non se ne va, non ti preoccupare. È una persona, non bisogna manco dirgli in mezzo a parola, te lo capisce. Vabbè, lui è onesto. Cazzo, non apro manco bocca, non apro. È da galuzzare. Appaga, se che così ce va bene. Cazzo, se non mi caccio tornato. Te non hai fatto nulla stamattina. No. Ho detto, siccome la conosco, quindi no, non penso che ci siano problemi. E tu vai, venga. Che sbagliato. Io molte volte non apro neanche bocca. So cosa, chi è e chi non è. Se lo merita, chi non è. Io non ce l'ho quella faccia di dire... Dammi, non me la fatti nulla, e te lo faccio, poi sei tu che devi vedere tu. Come l'altra volta, avevo testa di cazzo, gli ho pulito gli ogelli e poi mi ha detto che l'hai lasciato di cosa a pesce, ma vai, non era amara, vai. Forni. Ora. Tu gli hai provato gli ogelli, poi cosa hai fatto, non li respicco. Ma no, perché non li ho rimessi tutti a posto, l'ho riguardati anche. E ne sono sicuro che non so che vintiate. Se potete toccare, non ha fatto un casino niente. Cazzo, se già la bella se per il cavalaccio davano a due parte, non c'è più niente. Tante volte non conviene. Oh, ma quando le fa così i lavori qua, dici, devi avere la faccia di cuore, dici, questo qua. Sono 30 anni dopo la polizia degli uccelli, bandi. Ciao. Ah, già me la fatta qualche cosa, non sono buttato a mano in mano, però che ha fatto questa violazione che ha fatto, ma vaffanculo, vai. Boh, si sente che boh, non sembra di tanuda. Che cavolo, oh, non me ne importa, infatti gli ho detto schiare tondo, la prossima volta non mi chieda più niente, non ne so più. Ha fatto finta di nulla, via, andava, però se vuoi fare sono cassegate. Sì, ce ne sono, guarda, ci merita, ma sono sputti in faccia. Già, c'è gente che mi fa solamente ridere, mi fa. C'è gente che pretende, come se fossi lui il padrone per il tuo principale, capito? Fai questo, fai l'altro, oh! Ah, non avevo sentito, io ho preso il paraggio in usura, io mi disco a quello e basta. Allora adesso facciamo come a noi ci hanno detto di fare, ma dobbiamo lasciare la roba davanti alla porta e poi arrangiatevi a portarla dentro, perché se io entro col carrello dentro posso smasciare un vaso, posso smasciare qualsiasi cosa, mi tocca pagarlo, capito? Tanto che pagarlo, tocca pagarlo fino a un certo punto al tuo rischio, a me non ha fatto nulla. Cioè, non me ne basta manco per la telecamera, che ti si faccia col cavolo di due, non è colpa mia, no? E intanto mi do di su Giulia, il quadro bagando, gli ho detto, guardi che non ho altri mobili, che lo so, che in casa si porta a basso, perché basta che sbagli facendo una curva, una cosa tocca un quadro, una cosa lo rompe. No, non c'è problema, l'altra era toccato mantecendo il quadro, e ha pagato lo prezzo di un quadro un bel mano, cazzo voleva pagarlo. E ho detto, è un film che ho già visto io. Che pagato. Sapresti io a te trovo, ti ho avvisato che era così. Tu ti arrangi, adesso non mi scocciare più. Hai capito? Quello che ho detto, sono una scompata. Poi Antoni si è sbilanciato a lui, gli ha toccato l'angolo del mobile, ha toccato il quadro, si è disegnato, boom, per forza, perché l'ha alzato, se lo teneva più basso il mobile, non si sbilanciava, come l'ha alzato e si è sbilanciato. Già, e Maldani si paga tutto. Oh, ma manco ce l'ho fatta a perdere tempo, guarda. Ah, ti danno le balle, capire. La moglie ci aveva detto, E cosa deve pagare i subizzino? Ti ha buonodito di non farlo. E tu l'hai voluto fare un attesto, sono sempre solito prepotenti, sono solito in fascia tutto, sì. Obbligato la moglie. Ha detto, guarda, mi scusi, ma io te l'ho detto, non so cosa, ma il quadro costa un bene di anche, sai cosa non gli dirò io? Avanti. Meno male che adesso sono un bel po' di tempo che non porto mobili, tanto mi pare non li compri già più nessuno. Ma non è stato ordinato. No, non lo siamo ordinato, ci abbiamo quelli che ci sono rimasti, ma non sta comprando nessuno, boh. Io non ho niente in ambe, così compare altre cose. Non la stanno comprando, l'estate quando vengono quelli di Milano, c'è le vite a stentina, cosa, comprano di quei cosi, calzerebbo, altalene, tutte queste cose qua, baravilla. E magari io spero che qualcuno che ne viene ti compra un biglietto e se lo carica lui. Pochi se ne trovano altro di quelli, c'è molta gente giriata, qualcuno sì ce lo fa, ma non sono tanti. Gappa, Ma non si è visto niente, cura macchina con tutto, giovane, ma proprio gente giovane, che cioè, quindi dai presa che ha fatto fargliela portare a casa. Cioè tutti giovani, sei tutto canto e la macchina è tutto, e sei così miserabile, magari non tantissima spesa neanche, no? Ma non prendiamo un po' di voce, dai, che poi sono stato a calci in culo. Certo, molto comodo, se che una persona anziana cosa ti do ragione, se prendi il pellet che pensa un bel, magari bisogna 20 cassole di pellet, 20 sacchi di pellet, allora normale che la fai andare a casa, le macchine non vi salte, no? Sì, va bene, ma anche per un po' di spesa va bene, cioè. Fatto, ma tu tutti i mani troncati, cioè. Cioè, ma in che mondo stiamo vivendo? Che bisogna disincassinare, va, all'ultimo piano, non occupare già niente, se lo vai, va. E si guarda di come si rifanno la spesa, lui non vuole farla, la fanno lo stesso. E magari gli altri giorni la fa, la spesa, e la riporta all'ultimo piano. E cosa la regge? Poca cosa? Paghi 10 casse di acqua all'ultimo piano. E boh, sai quanto guadagnerà là, con una gattata. Che appagata. Cioè, ma boh, stiamo vivendo proprio in un mondo che... la gente è sempre diventando sempre più mandrona, cazzo. Poi questa ultima generazione, come ha detto qualcuno, non servono proprio a... cioè, sono solamente dei minchioni che non... è per quello che poi non sanno fare nulla, cazzo. Indurati mari sì, perché boh, non lo so il perché, cioè hanno tutto, hanno, cioè, ma boh, non lo so, la gente non vuole fare più niente, manco da mangiare si vuole fare più, se tu guardi le gastronomie, tutte queste cose qua, sono sempre più piene, la gente manco più cucinare vuole, è la miseria. Non te ne abiti. Cioè, non vuole manco più cucinare, ha una stessa ora, chiamane, noi ci fornevamo la genuina, quella di tutti gli Abruzzi, una stessa ora chiamano, c'è anche il menù, per esempio una volta a settimana c'è il minestrone, le lasagne, le cose, cioè, chiamano in tale ora, vanno, si ritirano la roba e mangiano così. Cazzo, boh. Una volta può capitare, per dire, una volta siamo usciti con mia moglie a fare della spesa, era già tardi, se siamo volati l'orologio erano già le 2 e passa, dica moglie, cosa avremo? Ci conviene, siamo andati da attore, abbiamo preso un pollo, un po' di melanzane, la pasta al forno e abbiamo mangiato così per il giorno, ma non è che sia una cosa abituale, è una cosa per tappare, là. Ma perché così va bene? Ma tu non puoi farne, cioè, ogni lì, cioè, c'è gente che non sa cucinare. No, a me piace anche cucinare. Piace pure. Ah, sai che la sento la mia, fare un elicottero. No, ma non è fastidiosa, non è di quelle, hai capito? Sì, ma qua il rumore non le fa amianto, ma dentro casa non le fa, si sente perché è un preficcato e si sente il rumore per quello. Cosa ti stavo dicendo? Costa una cazzata, 7 euro. Me l'hai detto. Ma quel rumore quando si sente vuol dire che c'è roba buona sotto, tutto qua. Che perché? Ma il computer va alla grande. Abusa. Sì. Sono belline. Io ce li ho anche le altre, ma una si è fusa perché va a 5 volte invece che a 12. Ho fatto un puzzo di fumo, bisogna avviare. Cioè troppo girava. Catta, poco girava in peso. Se si assumò. Dopo muore il cito, eh? E beh, fa troppo di più. Aspetta un attimino, mi piglio. Ma pulla di leva, me la reginocchia. Sa! Eia! Come qua. A cappa. E io quando sto parlando ne richiedo molto l'acqua. E beh, passate te, non la ribaccio. Oh, quasi sempre, cioè come mi alzo anche, già faccio sempre che c'è fitta. Cioè se però si vuole andare in bagno, vero? Sì, già. Anche a me faceva così, se pare che non avevo fatto nulla. No, ma buccio sempre queste fitte. E anche a me, mi venivano certe fitte, ma di colpo così. Mi prendeva sotto proprio sotto la pancia, proprio dove c'è il collo, lì c'è il collo. E poi mi faceva dire, e quello lì è un virus. E due o tre giorni ti dura, poi ti passa anche stufa il tura, scomitura di stomaco, di cose, ma mi si tenuto nauseato, strano, boh. Scomitura non lo so, perché di queste cose no, manca a vedere. No, scomitura di stomaco, cosa hai compreso, bussurandomi. Chiappa, ma è di che si sconvolge di più? No, non sconvoltura di roba, di droga. Si è appagato. Beh. Ehi, buah. C'era proprio magari ti piace anche. No, che mamma, è solo un viaggio, ma stampa è il suo cazzo di cose. Sto scherzando. Vabbè, c'è gente che le piace sconvolgersi in quel senso lì. No, io proprio non avevo, come se non l'avessi digerito, così la bruciavo di soga. Poi gappa, vediamo se sono con questi cannoni, se prendono un cannone vero, si passimeggiano. Ma sai che i cinesi vendono le carte di ritra? Cosa so? Ma le carte per farti rispedire. Quindi ritra? Sì. Uè. Sono argomenti che no. Non mi interessano proprio. Ma che a me interessa? Sono andato a pagare la casa dei cinesi. E ho visto c'era l'espositore delle carte. Poi forse sono sconvolti in nate pure queste. No, ma racconta per la volta dei cinesi, che eravamo con questo amico in discoteca. Nemmeno da molto. Siamo andati così a ascoltarci un po' di musica, non è che aveva gara di ballare e cose. Poi siamo messi a ballare qualche canzone che ci piaceva, c'erano dei cinesi ballando e li abbiamo visti da giù che questo amico mio fa servizio ambulanza con me. Abbiamo visto da lì che toccato il soggetto Luciano, quelli lì sono sconvolti, che sarebbe le due estere sicuramente. Poi Luciano ha detto, già un attimino che stavano in bagno, va in bagno da buttare la corrente, Gianni, vieni un attimino, che è successo? C'è una ragazza in terra, a casa si è sentita male, prendo, la massaggiamo, facciamo, era tutta mia itta, c'è una cinese. Abbiamo dovuto chiamare il 118, l'abbiamo massaggiata, l'abbiamo fatta riprendere un po', ma l'abbiamo chiamato il 118 per portarla via. Gli altri in pista erano più sconvolti di quella che era svenuta. Chiaro, ma cosa che il capo di bisogno un anno per pigliare il cuccarista? Ovvia. Secondo me sono... Ma dice che anche diventano anche molto pericolosi, a livelli che... Cioè, si dice una cosa sbagliata, pigliano un'ambulla, quello che hanno in mano, un coltello, quello che hanno in mano si trafiggono come niente fuori. Magari neanche, non avendo neanche colpa, perché dice che questa cosa qua la diventa una belva. cioè proprio fare le cose così. Ti dà la forza di continuare. Allora, noi abbiamo dei limiti che ci segnala il nostro fisico. Quando sei stanco, cosa fa la persona normale? Si riposa, no? Se è stanco di ballare, prende, beh, si siede, si beve una cosa, si tranquillizza un po', poi riprende a ballare. E invece cosa succede? Se tu prendi estasi, continui sempre a ballare, metti il cuore sotto sforzo, perché non c'è poi la fine, non ce la fa più, e sempre burro le mani. No, ma quanto ho capito io diventano anche pericolosi, stavo dicendo. Cioè, molte volte perché si ammazzano, perché non se ne rendono manco conto loro di quello che stanno facendo, pigliani e ti puntini, cioè quello che trovano in mano te lo tirano. Sono così, non ragionano. E anche le droghe sono tutte così. No, quando prendi somministri della droga non capisci più un cavolo. Chiappa, come fa a venire lì che si fa collente? Su, ma è rompito, ma è compreso, non fa. Sì, ma chi si fa tenere cocaina, mondezza, di tutto. Chiappa, ma se ora l'ha fatto arredire uno. Ha pigliato, l'hai regalato un pezzo di legno, lei poteva dire che era battendo i nonchi, era... Che tal cosa andava così, tutta... Però... E la salita siamo abbassati con i mogliti di birra, le bevende di birra, ma siamo andati a fare delle analisi a Marco. Sì, a Marco. Lì alla Last, quello del latte dolce. Siamo passati lì al tuo e stavamo bevendo birra dalle 8:30 di mattina. Beh, sì, quelle a Fiume. E poi chi sa del negozio che si prende il ricca. Ma non ti si fa? Vabbè, ma che calda, non è una fottina di 37 bit. Guardate, è una pura di... di lavore, ragazzi. Purtroppo. Certi non l'hanno lasciato quell'ambiente, anche se hanno spostato il serto, si trovano sempre lì. Sempre qua sono. Ma le fattine sono tranquille, mi ha dato di cubini fra tette, però non ti rompono i ricattoli. Che sia al massimo vederti le tue sicilice a casa tua. Ciappa, e cosa vuoi fare? No, ma sta tranquilli, non è che non fate nulla di particolare, non toccano nulla, che toccano niente di fuori. Sto anche tu. Quel piloma ne ha fatto colpo anche ieri. Ho visto. La bruciatura l'ha bruciata la macchina. Aspetta, come si fanno i giri? Si fanno i girettini. Bisogna armarsi di telecamerina e via, infatti qua. Dobbiamo vedere un po' perché queste cose. Romanco, cioè se ce l'hai e l'inquadra, ci sono tutti i due, e non fanno ne mancano da lì, andando a casa dove gli altri. C'è qualcuno che vuole entrare avanti? Boh, ripetendo. Che fregata. Bisogna armarsi, bisogna punitivi. Via. E quindi acchiapparli quando lo stanno facendo. Chiappa. Bisogna che il cittadino se lo mette in testa e ricopre la città di telecamere. Reghi, a combinare che cosa? A casa tua e sono cavoli. Infatti. Lo vedo che non acciappi mai. Sono anche fortunati. E noi quando abbiamo una videosorveglianza sono diverse le cose, molto diverse, anche se non la sappi tutti la sappa nei stili, e da quello cavoli suoi. è diversa la cosa, non ti preoccupa, sai gare? Vabbè. Ma fine va, non saranno quelle centinaia, 200 euro che si spendono, però alla fine non vedi, sai gare? Io mi facevano i riprendi di macchine, una volta andiamo tutta via Valdetta, davanti e dietro la mia macchina, i frittori, i lunotti spaccati, la quasi spaccato. Poi un giorno c'era un poliziotto affacciato alla finestra a casa sua, li ha visti, ha chiamato 113, eravate in bicicletta, hanno trovato i ciottoli, quelli che ci sono al mare, loro hanno detto che riceveva, perché dovevano andare in campeggio, dovevano ancora le lanterne, il barante della la cosa, la canadese. Ovviamente non li avevamo beccati. E comunque non ci hanno creduto, la polizia non ci ha creduto che erano per il campeggio e cose, la bicicletta, eppure ha messo quel poliziotto. La bicicletta è della Bucidretta. Che pagata. Non è giusto ciò che si sta facendo. Se fa sapere che tu devi impacciare la macchina di un poveraccio che andando a trovare da romanzare la vita. Ma se io vengo a casa tua e ti brucio la Ianna, ti piace? Brutto miserabile che non sei altro. Io non lo so come la ragiona questa gente. Quanto cosa vuoi fare? Così fanno. Aiuto. In che mondo stiamo finendo? Gaffa. Cioè, anche loro avranno una casa, avranno un qualcosa, cioè, e se lo fanno una casa a doia. Gente che non si mette a problemi. Gente che non si mette, tu pensa, di solito stanno bruciando macchine grosse, però vicino alle grosse ci sono anche quelle piccole, di gente magari che ha fatto sacrifici per comprarle, eccetera, eccetera. E si bruciano i volumi. Cazzo, ragazzo. Comunque c'è anche dei fattori strani. Secondo me sono a quanto si è scoperto, sono gli stessi quelli che le vendono, che mandano ragazzi a fare quelle cose, cioè, così si è scoperto così in giro, qualcuno lo fa. Vede le concessionarie che prendono la macchina per far girare le vendite. Qualcuno l'ha scoperto, non c'è niente di certo, ma c'è qualche caso c'è stato, ma secondo me è qualche cosa del genere. Sì, e così cosa fanno? Si vanno in galera e basta. Tanto prima o poi scoprono. In galera, sì. Si chiede va bene questa gente qua, vanno sempre avanti. E quando rompevano i vetri dicevano che le vetri che erano vette così carrozzieri che li mandavano, invece non erano loro. Erano ragazzi così che si divertivano a rompere, le boom basta. Cappa. E alcune dei casi saranno anche così. Cappa. Però dai, che ci vorrebbe il linciaggio, ci vorrebbe. Quando fanno queste cose, metterlo, care tu a gare che facciato riprese, ti occhiare cimprugno, venite qua, in mezzo alla folla, ogni assussa. Vabbè. Diciamo che l'altra volta quando li hanno trovati se la sono scampata perché la psica della polizia direttamente, se no un bel padrone di macchine avevano i cuti a velo. Che fregata, ma io l'avrei lasciati fare, io essendo dalle porte non mi ero messo io in mezzo. Quando il bel bisciato, beh, avanti. Sì, dentro la pattuglia, ma non delicatamente, no. Ha fatto di uscire dall'altra parte. Che caso tu? Ma comunque ci vorrebbero anche più controlli la notte, perché loro ne approfittano perché non ci sono controlli. Lo so, ci vorrebbe sì, perché il cittadino sta pagando le tasse. Non si deve bruciare la macchina da una merda. Mi hanno detto i consigli di guardare dove vengono fermate le macchine e controllare bene se magari si può dare problemi ad altra gente, perché molti di questi ci sono persone che magari devono uscire per lavorare e passano il carabinieri e mettono la macchina. Beh, dopo di quello c'è anche, siamo anche l'esagerazione, c'è quello che lo fa per gusto, c'è quello che lo fa per vendetta. Infatti, probabilmente queste macchine grosse, o è qualcuno che c'era con la gente ricca, che brucia macchine grosse tutta andata. Sicuramente. Dovrebbe essere anche un operaio magari disoccupato, incaffato per quello che sta succedendo. I ridotti di colore che sta succedendo. Ci sono dei padri disperati, padri di famiglia che stanno prendendo il lavoro e sono disperati. Magari un atto di nervosismo, di cose, boh. Ecco già, ci sono sicuramente baccate anche. Sono, non è quello il problema. Sì, quello ci sono sempre stati. E non è tutto quello che abbiamo preso noi, che si è cagato addosso perché i carabinieri hanno trovato col bidone della benzina, stava spargendo in alta la macchina e l'hanno buttato della benzina e si è cagato di tanto. Pagato. Non si sa neanche molta gente perché lo fanno. Anche molti vorrebbero finire anche dentro per mangiare. Questo non mi ha detto che l'ha fatto perché una ragazza convivente l'ha mollato per mettersi con un altro e lui non ne poteva la vita. Quindi ogni volta distruggeva la macchina. Ma era la prima volta, le sta buttando la benzina, hanno visto degli inquilini che abitano il palazzo della ragazza, hanno chiamato i carabinieri. I carabinieri sono arrivati in zona, sono intervenuti, hanno puntato la pistola, hanno trovato col bidone e la stava spargendo sulla macchina. Era di Sus, non era Marco di Sassi. Marco, era su Cinco. E praticamente quando siamo arrivati in caserma, perché dopo notte in caserma, anche se ci freghiamo tutta la macchina, dobbiamo fare tutta la notte in notturno. Abbiamo portato un lenzuolo di bambino, su quelli che si buttano via. Abbiamo portato in questura e fa. Guarda che c'è al collega, no? Che c'è un cagone da interrogare, mettici un po' di carta nella sedia. Ah. Io dici come ti camminava, tu facevi grumare le risate, da una mezza e mezza là. Carta si è cagata addosso. Ehi, i carabinieri quando l'hanno visto buttando la benzina, gli hanno puntato la pistola. E lui si è cagato dalla FIFA. Ma San Mariano ci hanno detto c'è un'urgenza in via Pascoli, angolo via Montello. Io pensavo fosse un incidente stradale. Come ha detto urgenza, ho preso attaccato le sirene, sono arrivato lì e si trovo su tranquillo. Non era successo, no? C'erano solo i lampeggianti dei carabinieri. Cosa è successo? Non è che c'è un cagone da caricare, fate la cortesia che. Se no poi se lo carichiamo in macchina lui dice ci sta la macchina e dobbiamo stare tra la notte con l'odore dentro. Ma non gli butta l'ambulanza. Ehi, no vabbè, l'ambulanza ci abbiamo le lenzuola a quelle da buttare via, là. Li metti quelle lì sopra e non sporcare altro. Lui dice ha chiesto fatemi andare a cambiarmi almeno prima di arrestarmi, che sono tutto cagato addosso. Non ha risato da lì. Che ho pagato e poi ammazzo. E intanto se non ve la restate di Calabria vi abbusso fuoco, sicuro, sicuro, perché diciamo che ho trovato l'accendino in mano e il bidone, e stava spargendo la benzina sulla macchina, tutta la macchina. Grazie quanto è aumentata la benzina. 08, dai. Da quanto era oggi? 1.400 e più. 1.40, io l'ho vista 1.49 qua. E così era via Giovanni Pascoli, io l'ho fatta a Farboli. A Farboli non c'è più altro. Non lo so. Beh, ve lo frate. Ho fatto tutta, ho visto tutta gente nuova, non ho più visto lui. No, mi sembra che te che c'era la prima. Oh, io lo so. Io sono sceso al produttore a fare la benzina. Sono andato a farmi il giro in moto con Marco, ho detto vai, adesso mi metto la benzina. Sono andato a mettere, c'avevo 20 euro e 50 euro, quindi ho detto che cavolo faccio, che non ci sta. Ho chiesto se mi cambiavano le radici, c'era una fila astronomica, nessuno ha avuto da cambiare, la sono andata all'edicola, manco lui. Guarda, è perché 20 non ci stanno. No, non ci stanno. Non fermano il tuo osservatore. Un attimino. Oh già. Dicevo ce ne stava a fare 12 là. Siamo già. Via. Cavasape si scrive come Kawasaki con la K, no? Con la K, no? va zappe, va zappe. Come ho scritto? Dopo una giovista una con un motore del 500, però fatto turbo. E dicevo che una giovista modifica. Ha già visto una chita 126 che si sfidava col Porsche. Per la ripresa, non l'ha visto più. Chissà che modifica gli hanno fatto. Dicevo poco la rigoma di questa macchina. Cazzo, l'ha sofferto di brutto al Porsche. Allora è scritto così, con la K iniziale. Come scrive Kawasaki? La V doppia, su va. Cavazza, tutto attaccato. Che cosa ho detto? Oh, già. No. Ti ho detto che c'era questa 126 che ha superato lo Porsche. Se puoi immaginare che modifica l'hanno fatto, com'è grande. Alla fine un motore, uia. Tu non l'hai vista quella Golf che c'ha le ruote di trattore? Ho visto una Golf, ho visto un'altra cosa, la 500 accelerando, vroom, vroom, vroom. Cazzo, si muove che sta Golf, vroom, vroom, vroom, vroom. E ci drum, vroom, recito, cazzo, sta lì qui in terra. Che fusa? Su YouTube c'è. E ne vedo un bel io. Oggi ero sugli elicotteri. Fatta vedere gli elicotteri nel modellino che volano. Ostia, io ne ho visto uno. Di quelli dei modellisti che hanno fatto lo spettacolo lì a Coso, lì allo stadio della Torre. Una persona quota che si è sframinato contro il pubblico, perché il pubblico si è abbassato, ha preso la rete, poi ha pigliato macchine che si sono parcheggiate, un casino, ha fatto di mani e mani. Pericoloso. Sai cosa, ci bisogna essere occhi di falco, come dicono tu. Quando li fanno volare vanno ben lontani, se non hai vista buona non compri di nulla. Soprattutto i comandi devi prendere giusti. Sì, quelli già sono abituati, loro sono del club Porto Torres di volo, sono di quegli esperti che ricostruiscono loro gli aerei, sanno come funziona, sanno tutto, fanno loro tutto. Ma può andare anche male? Vabbè, può andare male, anche uno che sa guidare la macchina, anche un pilota può anche morire, esattamente. La cosa è andata male, pazienza, qualche manovra sbagliata, e solo che il fatto che è andato verso il pubblico era di quelli aerei un bel grande, di quelli tipo jet o bagusi, è andato verso il pubblico si è abbassato, ha sfondato una rete, figurati che altri ragazzi, ha sfondato la rete dell'imitazione, è andato dove sono le parcheggi delle macchine, che gli ha disordinato altre macchine e fasciate. No, la mara. Era grande, mi hanno detto, sembrava un aereo vero, cazzo, c'erano le turbine, tutto quanto, faceva cazzo, come girava, i pantaloni a quello che lo guidava, li volavano, come se ci fosse vento. Si è spagato, è anche pericolosetto, Tu sai, è una bomba, ti viene addosso, ti ammazza. Già lo so. Non è un pochettino pericoloso farlo volare così. Sono ben veloci. Ma c'erano certi che accelerano un e si lanciavano in alto, quando finivano la benzina poi scendevano piano piano. Erano leggeri, tipo di pillole. Ragazzi, si fa la muscella lì. E sono fatti con il polistirolo di quelli leggeri, da. No. Hai visto la cosa? Quelle macchinette piccole a miscela. No, non sono a miscela, sono a collettivi con quello. Sì, cosa ammalato invece? Io andavo a vedere le gare, facevano le gare al quadrato prima. praticamente con tutte le ruote di macchina attorno al quadrato, e facevano le gare, però erano proprio gare con professionisti, si raggorriano loro, stavano sulle torrette, c'erano delle torrette per guidarle, salivano su, le guidavano da sopra, le volte li vedevano dall'alto, e facevano le gare proprio. 30 km orari fanno. No, era amara. Così più corda cos'è? Ma se butta la ruota si è misurata e si butta la rottura. Ti immagina che forza c'hanno? A voce. Era uno biondo che doveva essere polacco, roba del genere. No, non è bravo quello lì. Deve essere brava per non fare con le cose. Beh, gente che impara, che poi a furia di provare cose impara bene. C'erano le gare da rally e le gare da corsa. Quelle da rally le ho viste a punti. Ma se quelle sono belle, le vado a brinco anche. Con gli ammortizzatori e tutto, come le macchine vere. Fanno certi salti allucinanti. Ma c'è quella che aveva preso, ma di quelle macchine così ci metteva la benzina con l'olio. Solitamente vanno alcol etilico. Ma vuole mescolato a olio però. No, io non lo so, lo vedevo. C'erano le bidoncine in miniatura, le pompette in miniatura per mettersi l'imbuto piccolissimo, era tutto piccolo piccolo. Certo. Comunque, secondo me un motore ad alcol si può fabbricare. Sono quei modellini perché non può andare una macchina grande. Poi li facevano meno, le facevano anche al terzo piti, non si è mai andato. No. Al terzo piti c'è la pista, capito? C'è la pista. Non ci sono mai andato. E non lo so se è ancora attivo, no, entri dal stesso, proprio ti viene di fronte al bivio, no? Entri lì dentro, vai dritto, invece che girare per andare verso Plaza Mona, vai dritto. Entri dentro e c'è questa cosa, questa pista per le macchine. Che ho pagato. Fanno anche gare di coso. Come si chiama? Dico carte fanno lì. Ancora? Sì, lì. Ah, Plaza Mona, quanto ne sapevo io. E no, è proprio Plaza Mona. Prima del video dove c'è il fornitore, visto che dove siamo fermati una volta a mettere benzina. C'è il fornitore prima del video di Plaza Mona e c'è quella stradetta appena appena abbiamo avanti il fornitore che entra dentro, devi entrare lì. Gappa gappa. Ah, stai leggendo da Meloni. La pista di Goccardo, sei pure. Cosa? La pista di Goccardo. Stai leggendo lì, scendendo l'ottava. Ah, sì. Non so se ci sei ancora, io un mese anni fa andavo a fare servizio con l'ambulanza. Che c'è? Correvo anche il figlio del dottor Carlo. È bello da correre, sarà. Adesso lo tocca per pressione, mi ha detto. Marica, è bello. Dunque è molto pericoloso, anche il Goccard. Io ho visto un incidente, Antu, che c'era il figlio del dottor Carter, il dottor Carter l'ha tremendo la pista, prima lo dicevano noi, mi raccomando, se succede qualcosa, calma, non entrate in pista che ci sono gli altri Goccard, aspettate che si fermino le macchine, il dottor Carter come ti ha messo un video sotto la macchina, se entrate in pista correndo. E il dottor Carter! No, no Gianni, scusami, ma mio figlio. Beh, è normale, è un figlio. No. Bisogna stare molto attenti, bisogna avere anche molta bravura di noi, di non troncarci le ossa lì. Ma il figlio stava vincendo, era 125 la competizione. Stava vincendo questo bastardo, l'ha preso, l'ha speronato, poi si è passato sopra con la macchina sua, sopra la macchina del figlio. E cos'è il problema, già? Il problema lì è che deve, proprio per evitare quelle cose lì, magari con macchine più potenti quel coso lì non c'è, però perché riesce a distanziarlo, ma lì è molto difficile prendere le distanze. Perché anche la pista è piccola e tutto, non è che sia enorme, no? È difficile perché deve, perché sono tutti alla pari, insomma, quasi. E quindi il problema è quello, invece cosa ne so, tipo una macchina da Formula 1 c'è tanta differenza da una all'altra. Poi quelle competitive e competitive ci può essere qualche secondo da una all'altra, allora lì riesce a fare la differenza tantissimo. Un secondo a giro riesce a fare la differenza. Ma lì non si tratta così, lì si tratta che sono, ma anche in altre categorie, lì si tratta che sono delle macchine tutte uguali. Atto, e fare distanza è un'impresa molto difficile, significa prendere dei rischi e secondo me con me si tronca anche le ossa. Cioè, io facevo tutte le domeniche lì. E lui sì. Se ci abbiamo un Morris. Ah. Ci abbiamo un Morris. Siamo Morris. Tutte le domeniche, il martedì. Adesso, la scorsa settimana mi pare che sia andati il mercoledì. Pagato. E beh, quando si è andato a vedere le manifestazioni. Allora è così fisso, se ci sono servizi ci siamo sempre noi. Ci sono gare, manifestazioni lì. Sempre ce n'è lì. Sì, io lo so che ce n'è sempre. Hanno fatto anche la gara delle Ferrari. Ferrari. Sì, ho capito. La tocco. Vedete che c'era con la Ferrari targata in Modena. Bella la Enzo, è buono di pompa. Dice che c'è un bel budese. Io non l'ho visto, ma Natalino già l'ha visto. Già li ho visti. Che fa? Va bene, ma dove si gareggia con quelli lì è poco accelereggia, né? Ma dove si accelereggia, né? Finisce un cialano, mamma. Lo so, quello che è così, ma non bello. Se hanno, quando si entra nel secondo scarico, guai. Comunque anche le gare di moto sono andato a vedere, le gare di moto già le ho viste. Già sono belle. Già. E quelle macchine lì funzionano così, funzionano. Quando sono a bassi regimi, c'è la prima farfalla, c'è il primo scarico. Quando schiacci un bottone, schiacci, entra il secondo scarico, entra e dà tutta la potenza, Gesù Maria. Intendi fare una moto, pare, che anda a cantare per le reggia. Era una portatore su una Maserati, Antu, il periodo di Natale, adesso non l'ho più vista, era bianca con un perro, là. Se ne accelera da... Un rombo pari a un R1, una moto da corsa. E così fanno. Anche quello lì. Quando entra il secondo scarico pure in quella. Perché sono così, per consumare poco vanno tranquillo. Poi quando si aprono le farfalle, Gesù Maria. Va bene. Ok, Antu, va. Io me ne vado a riposare, non posso, stanco. Non ho dormito nulla oggi, da una cosa all'altra, non ho riposato. Ci sentiamo, ti auguro una buona notte. E un buon tabacco per domani. Ci sentiamo, Antu. Ciao, buonanotte già. Fuga! Ciao a tutti, a casa. a Marsevia, ciao ciao. Ciao, ciao Luca.